L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao, ciao, Ricchione. E niente, volevo dirti solo una cosa, per tutti coloro che chiamano Palenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo, è mantecato di merda. Ma cosa ridete tutte e due, Gianni e Pinotto, che non siete altro diventati? Siete diventati dei Gianni e Pinotto! Me ne vanto e sono orgoglioso di essere fascista, perché quello dice che è fascista è un reato, se lo sta inventando lui, non c'è nessuna legge che hanno fatto che chi, e anche se la fanno mi devono staccare la testa sotto la ghigliottina e dirò io sono fascista, tagliami la testa. Sì, volevo capire questo, lei ha, mi pare di aver capito che ha studiato la normale di Pisa, giusto? È uno storico comunista di merda, comunista, ti ricordo che io la bandiera comunista staccavo la stella e la andavo a mettere sotto il culo delle vacche. No Giovanni, io non ho capito, sei in ferie, calmate un attimo, sei pure in ferie, sei in ferie, perché non posso essere in ferie, sì, a 60 anni, che io a chi devo chiedere permesso? A nessuno, per carità, ai comunisti, ai comunisti di merda devo chiedere permesso. Ma lei deve ringraziare, ma il cos'è Padre che ti ha fatto ora vive volte con il lei, ma lei con il tu si parla con me, io sono fascista e si parla con il tu, il lei te lo metti al buco del culo, culo. Allora ragazzi, io inizierei, caro Parenzo, inizierei oggi facendo riascoltare un po' dell'intervento del signor Oliviero Toscani. Sì, d'accordo. Qui alla Zanzara ieri sera. Sapete che si discute in questi giorni del problema dello ius soli. Un argomento molto controverso, sì. Parenzo è a favore dello ius soli. Uno ius soli, devi già dirlo, non è uno ius soli. Vabbè, ma lascia perdere i dettagli. No, ius soli è nasci qui e sei italiano. Questo esatto. È un accrocchio dopo 5 anni. Comunque il principio è quello, un dai. Un accrocchietto, una cosetta, un pannicello tu caldo. Tu lo vorresti integrale, nasci, lo ius soli, no? No, come in America, nasci qua sul suolo italico, vabbè. Sei cittadino benissimo. Italiano. Benissimo. Fine, chiudila qua. No polemiche, lo dico oggi, ieri mi sono accalorato col cuore in mano. Siete tanti a pensarla come me, lo so, e grazie. Piccola minoranza rumorosa, fatta di fascisti, di leghisti, qualche imbecille che telefona. Ma no, ma ragazzi, non è così. Qualche imbecille che telefona alla radio. Però so che siete in tanti, ma ce la faremo. Ce la faremo, ma ce la paese, faremo cosa? Lo stiamo cambiando questo paese, come stiamo cambiando questa trasmissione, piano piano, raccontando storie, storie di vita, storie d'amore, non storie solo di sesso e di misurazione di peni. Questo paese sta cambiando. Sei un coglione. Stava cambiando, te lo dico io, che sono esperto. Ecco. Allora, Oliviero Toscani alla Zanzara. Io ovviamente non sono d'accordo con quello che dice Parenzo. Cioè, secondo me, chi è contro lo ius soli non è affatto né fascista, né razzista, né pezzo di merda, né contro gli stranieri. No, ma... Vuole semplicemente che uno la cittadinanza, anche se nasci qui, non la puoi acquisire subito. Deve passare del tempo, bisogna verificare, bisogna che ci sia un controllo. Non è automatico, ci sarebbero delle storture, gente che arriva, eccetera. È una cosa molto che non si può ridurre come la fa Parenzo. Uno nasce qui ed è italiano. È così. No. Comunque, vabbè, queste sono opinioni diverse. Oliviero Toscani ieri alla Zanzara. Partiamo perché ha detto delle cose incredibili contro i leghisti, contro gli italiani, caro Oliviero, hai detto. Io ti conosco, non puoi pensare certe cose, amico mio. Cioè, un immigrato che arriva, secondo te, ha più diritto di essere italiano di Salvini? Molto più, almeno arriva qualcuno intelligente. Prima cosa, dunque, chiunque arrivi qui è più intelligente di Salvini, perché Salvini è notoriamente, secondo Toscani, un cretino, e dunque gli immigrati che arrivano, welcome. Cioè, molti italiani sono testa di cazzo. Ma sicuramente, ma certo. Mamma mia, ma è pieno. Qui, pensa, cioè, votano Lega. Testa no, di cazzo votano Lega. Io voglio dire una cosa. Ci sono molti italiani teste di cazzo. Quelli che votano Lega sono teste di cazzo. Sì, adesso Toscani. Sei stato un po' tronchon nel giudizio, però. A lui? No, io che c'entro io? No, dico lui è stato un po' tronchon nel giudizio. Le cose che dice lui sono queste. Sei super a favore. Te lo sei meritato di nascere in Italia. Bravo. Ma allora, che c'entra? A parte che non so se è un merito. Esatto. Perché sono nati qui tanti di quei teste di cazzo, esatto, che non se ne finisce più. E poi te la devi guadagnare la cittadinanza ma italiana. Ma guadagnare cosa? Ma cosa ti sei guadagnato? Te la devi guadagnare fra tuo papà e tua mamma. Cioè lui dice, siccome tu sei italiano sostanzialmente perché tua madre e tuo padre hanno scopato, hanno sei fatto frutto, l'amore qui, esatto, e quindi esatto, sei frutto di quell'atto d'amore che per tua fortuna è nata da questa parte del mondo. Cioè non c'è nulla di meritato, di guadagnato. Bravo, per caso sei italiano, dunque sei per più fortunato. Caso, siccome i tuoi hanno fatto l'amore qua, ad esempio prenda il caso sfortunato, no? Sì, sì. Di Donato da Varese, perché per me Mauro da Mantova non esiste, perché è molto meglio Donato, nella guerra tra miserabili è meglio Donato. Bene, vediamo il caso di Donato da Varese. Se i genitori di Donato da Varese avessero fatto l'amore in Marocco, avrebbero fatto un favore al mondo, all'Europa e all'Italia nel particolare. Purtroppo per noi i genitori di Donato da Varese hanno fatto l'amore in Italia, a Varese. Sì. E guarda il risultato. Cioè tu dici meglio un immigrato musulmano che il signor Donato da Varese. Giuseppe mio, senza ombra di dubbio. Tu prova a pensare chi l'architetto arabo che ha costruito la Alhambra nel sud della Spagna, ad esempio, no? Prova a pensare alla bellezza di Siviglia, Granada, Cordoba, la bellezza anche dell'incontro tra culture. Pensa a Palermo, al meticciato che c'è lì, dei flussi, degli arabi e quant'altro. Sì. Allora ti dico, se Donato da Varese, Mauro da Mantova per me non esiste, fosse nato dall'altra parte del mondo, sarebbe un piccolo spermatozoo nero che oggi cercherebbe di arrivare qui in Italia e non direbbe le fregnacce che dice. Chi c'è morto? Chi c'è morto? Stai zitto che non sei nessuno! Vabbè, questo ragazzi era Oliviero Toscani. Oliviero Toscani. Ora voglio farvi ascoltare però le parole del padre di una delle due persone morte a Londra, della ragazza, credo che sia, no? Cioè della ragazza morta a Londra nel rogo. Si chiama Loris Trevisan. Allora, la tragedia, le cose, eccetera, non è questo che ci interessa. Ci interessano le sue parole, perché io capisco la rabbia, capisco, se volete, il dolore, tutto quello che volete, lungi da me criticare qualsiasi frase, però siccome questa è la zanzara, non è che non ci facciamo sfuggire nulla da questo punto di vista, sentite le parole, voglio sapere cosa ne pensate, cosa ne pensi anche tu, Parenzo, perché sono parole secondo me incredibili, perché uno anche muore una figlia, ma senti, non hai sentito, ma no, prima ma so senti tutto perfettamente, prima senti che è la colpa di un governo corrotto, ingiusto, che porta i figli a andare fuori a studiare, perché la mia veramente ha dato il massimo. Si è laureata, basta, cosa c'è da dire? Cioè la morte della figlia, che si chiama Gloria, se non sbaglio, sì, che si chiama Gloria, è colpa del governo italiano. Se la tragedia di una persona che ha appena perso una figlia, appunto, che cosa dice? Lui lucida, mi sembra anche parole abbastanza lucide. Ma no, cioè, ma mi è il suo pensiero, ma io ho capito, siccome è dovuta andare all'estero a studiare, a guadagnare, è colpa del governo italiano, che è andata all'estero e dunque è morta in un rogo. Ma dai, su ragazzi, si può dire tutto. Ma io infatti non dico che è uno stronzo, non lo dico assolutamente. Sono d'accordo nella valutazione. Dai, però ma non si può dire colpa del governo italiano che me l'ha mandata all'estero. Lui lo può dire. Cioè il dolore no, che ragazzi, lo Lui lo può dire perché ha quella cosa di dolore. Io non penso sia così, però ti voglio fare sentire, tanto per far incazzare qualcuno dei nostri ascoltatori, il signor De Benedetti. Benedetti. Che dice? Sì. L'ingegner Carlo Benedetti. Sì, Macron, ieri alla Repubblica delle Idee. Cioè. Macron un fenomeno. È vero? Senti, ha ragione, certo. Non so se ha ragione. Ma a me piace molto De Benedetti. Cosa devo fare? Ma no, ma mica ho detto non qualcosa. Non sono mai stato un suo dipendente, non ho mai purtroppo. Ma mai stato, purtroppo mai. Adesso non puoi essere dipendente di tutti. Non è che può essere dipendente Fiat, di tutti. Del sole, dei poteri forti, amico mio. Dei poteri forti. Bisogna essere dipendenti. Ma tu di chi devi essere dipendente? Di gente che c'ha il grano, no? Ma tu vorresti essere dipendente di uno che ha le mezze al culo? Non credo che non si fa. Ma no, assolutamente. Noi siamo fortunati. Io e anche noi siamo con i poteri forti. Sì. No, non è vero. Ma scusa, ma tu vorresti essere dipendente di uno di un imprenditore? Debole, dici, no, di uno che non ti può pagare. No, io ho avuto la fortuna di lavorare per aziende che hanno sempre pagato bene e alla scadenza del 27. Macron un fenomeno. Ti chiedo una battuta su Macron. È una battuta difficile perché è un fenomeno. È un fenomeno perché uno che a 13 anni suonava... Trump un pazzo furioso. Mi pare che abbia perfettamente ragione. Ci sono cose che io dico normalmente. Parenzo, due punti. Adoro De Benedetti, ha sempre ragione. Ma io potrei quasi sempre, se vuoi mitigare un attimo, vero? Un pazzo furioso, come il presidente degli Stati Uniti, che in un mondo... Avete cagato papà la minchia questa trasmissione. Solo stronzate contate. La Zanzara. Parenzo, quando vuoi. Buonasera Zanzarosi. Niente, volevo fare sapere al gran premiato Oliviero Toscani, Oliviero, come cazzo si chiama, che è il primo testa di cazzo che porta la bandiera qua in Italia, è nato lui, no? Lui è il primo, gli altri purtroppo siamo nati dopo, siamo secondi, ma lui è il primo testa di cazzo nato in Italia. Buonasera Zanzarosi, buonasera. Oliviero, se tanti italiani se teste de cazzo partitite sì in cima alla lista, che te che hai fatto i skate fotografando quattro negri lì, vai in mona. Ora, ma ti pare possibile che le discussioni nella politica italiana siano ristrette oltre che allo Ius Soli, naturalmente, che è una discussione vera, concreta, reale, su un fatto vero, cioè su cose che toccano le persone, la vita sia degli immigrati che degli italiani, sull'incontro vero o falso tra Salvini e Casaleggio? Sì, è incredibile. Ma ti pare normale? No, cioè, ma sai perché? Ma a fare questa canea, ma chi sono, se ne soprattutto, frega? Sono soprattutto i grillini, Casaleggi. I grillini che si vergognano grillini. Quasi sì. Dell'idea di aver incontrato, sì. Che qualcuno dica, esatto. Vero o no che sia, perché il giornalismo spesso è fatto anche di illazioni, certo, di retroscena, eccetera. Ma a loro fa schifo solo l'idea, perché loro perché hanno costruito così il loro elettorato, la loro fortuna politica, dicendo che tutti fanno cagare. Quindi se tutti fanno schifo. Beh, ultimamente Grillo ha anche detto che non ci saranno alleanze, ecco, no? Dopodiché, qual è stato il loro errore? Siccome fino all'altro ieri hanno trattato sulla legge elettorale, quindi si sono già sporcati le mani, no? Perché sono andati al mulino, hanno impastato il pane con tutti gli altri quattro criminali, gli altri tre criminali, secondo loro. Sì. Da questo momento in poi non sono più vergini, cioè hanno le mani sporche di farina, e quindi gli brucia di più sapere questa ipotesi che forse hanno incontrato la Lega. Quindi devono far di tutto per smentire, capito? Questo è. Si sono sporcati le mani con la legge elettorale. Lì loro hanno messo le mani nella farina. Sono andati quando al forno. Quando è che ti è venuta questa cosa la farina? Quando è che ti è venuta in mente questa cosa la farina? Ti piace? No? Se vai al forno ti sporchi. Comunque, ragazzi, la cosa più incredibile è questa. Sto ricevendo Casalecchio, praticamente... poi Casalecchio sul Reno, peraltro. Casalecchio si chiama, o Casalecchio? No, Casalecchio. Casalecchio è una località meravigliosa, peraltro, della Emilia Romagna. Se non sbaglio, Casalecchio. Casaleggio Junior. Ma non so, ma cosa pazzesca, non corre dai. Buon sangue tra il signor Casaleggio Davide e il signor Parenzo David. Ma di bello c'ha il nome, ecco. Il nome di battesimo. Allora, ragazzi, ma ti pare normale? Allora, i coniugi Respiriani. No, è simpaticissimo. Aspetta, i coniugi Respiriani mangiano solo frutta e verdura tre volte a settimana. Ci nutriamo dell'energia dell'universo. Hanno seguito i cosiddetti 21 giorni di conversione al respirianesimo. Mamma mia. Gli uomini possono vivere tranquillamente senza mangiare, purché siano in sintonia con l'energia sprigionata dall'universo e si nutrano attraverso il respiro. Andate a fare in culo, va. C'è una sola risposta in questi casi, ed è molto secca, ed è un po' grillina, diciamo. Un po' grillina. Poi in televisione l'altro giorno sulla Rai c'era una c'era una che si chiama Scuppa, una fruttariana, una Pam fruttariana. Scuppa, sì, in televisione, Rai 2, che ha bevuto la sua pipì. E vabbè, ma se ti piace così, cin ragazzo cin mio. Davanti al signor della Gherardesca, cin cin alla salute con la pipì. Straordinario. Pezzo di televisione molto bello, devo dire. Puoi farci un esempio di urinoterapia? Ok, come no? Vado e faccio. No, va. Ce l'hai fatta. Sì, vedi, ci sono pure i rimasuglietti della mia pipì fruttosa dentro. Ah, al naturale. Al naturale? Ah, certo. Ma sei stata bravissima. Cin cin. Alla salute. Cin cin. Il signor Pepe, deputato, anzi senatore italiano, ex 5 Stelle, dice, dopo essere stato in Corea del Nord, che ci sono meno casi di autismo. Dove? Perché fanno meno vaccini. Ancora? Signor Pepe. Aridaglie, signor ancora? Pepe. I vaccini là li fanno a 3 anni e li sono solamente 4, figurati. Stanno proprio a casi di autismo, di reazione avversa, sono molto di meno. Ma è regime, anche sicura, perché, ma è regime, ma qua sicuramente. I dati del governo della Corea del Nord sono trasparenti e sì, accessibili. Il senatore Pepe è riuscito a leggere i dati del governo della Corea del Nord. E io ci no, deve, non ci deve credere. Questa è una minchiata, senatore, scusi se mi permetto. Aldo da Roma, vai. Pronto? Dimmi, Aldo, dimmi. Oh, meno male, sono 2 giorni che mi rischiate male. Calma, calma, calma, calma, ma dimmi. Dimmi, Caldo. Oh, Aldo, Marco da Milano, vai, Marco. Marco? Senti? Sì, dimmi. Pronto? Sì. Io volevo parlare con Parenzo che... È qua, è qua. Ci avevo scommesso le palle che era contento da matti di questo Ius Soli e della Ius Culture. Perché sicuramente... Lascia perdere queste definizioni. Sono definizioni assurde, incredibili. Secondo te cosa lascia perdere? Definizioni stupide. Chi nasce in Italia dovrebbe essere automaticamente cittadino italiano. Non è che c'è da dare troppe definizioni. Sì, ma ho capito, uomo. Fine. Ma bisogna capire anche chi nasce in Italia. Non è italiano, ma ha anche cittadinanza europea. Capito? Sai qual è il problema questo? Certo. Vabbè, Marco, dai, che cosa vuoi dire? Dimmi. Devo dire che ho stronzato insieme ai suoi amici del cazzo del PD, che figa, già la cosa. Calma, stai tranquillo, non ma sei, perché fumi, sei in un prima piccolo di... bar, ma stai tranquillo, ma stai calmo. Ma c'è qualcuno che fuma qua, il Parenzo, che c'ha 2 occhi, figa, c'ha 2 biglie, che ha messo veramente male, figa, quella faccia pagliata, gargamella. Ma poi perché ha questo... Perché ma ha questo zitto, questa cadenza con lui? È figa, è volgare, posso dirti. Ma stai zitto, c'è il fisico, la faccia gargamella, ma cosa stai dicendo del PD? Ma ti posso dire, ma posso dirti che ti rendi ridicolo, no, però non sono del PD. Ti posso dire, la Fedeli che hanno rotto un braccio, è stata ferita un braccio, è stata ferita. Ma ti stai rendendo ridicolo? Ma te ne rendi conto che ti stai rendendo ridicolo? Questo appena ti esprimi, appena ti fai vedere, sei ridicolo. Però è interessante, Marco, questo tuo intercalare quando dici figa è interessante. Sì, cioè, ma è una roba di una volgarità. È un tuo intercalare, diciamo, normale, no? Figa. Naturale, naturalissimo, no? Naturalmente. Però figa, Parenzo, figa. Come la faccia di merda che c'ha Parenzo, naturalissimo, sì, proprio. Certo. La base. Ciao, ciao Marco, ciao. Ciao caro, ciao. Ed è venerdì. Crucia, finalote! Non mi rompete i coglioni. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Cruciani, tu sei... Guarda, tu sei un morto di fame, tu sei un cretino, sei un morto di fame. Che cazzo vuol dire che la cittadinanza bisogna guadagnarla? Guadagnare che voi siete il paese più vecchio in Europa, secondo al mondo dietro il Giappone. Ma che cazzo dici? Oggi non mi fai incazzare, perché mi fai ridere, guarda, perché sei un... Guarda, lasciamo perdere. Il ritorno di Spada di Fuoco, Paco. La pensa come Parenzo. Ma Parenzo la pensa come Spada di Fuoco. Ma sì, ma no, la maggioranza. Senti, ma che maggioranza degli italiani? Sicuramente, ma che dici? Sicuramente. Ma quando mai? Senti. Quanto mi piacerebbe incontrare queste teste di cazzo che minacciano Parenzo? Quanto mi piacerebbe incontrarle per strada, questi stronzi? Quanto mi piacerebbe incontrarle e farli neri, questi stronzi. No, oggi non mi fa incazzare, guarda. Ma basta. potrebbe diventare il tuo corazziere nero. Grazie, come, fratello. Come il corazziere del, sì? del Quirinale, il Bravo. Brasiliano. E il futuro è quello, grazie, fratello Spada di Fuoco. Siamo in tanti, non avere paura. Tirate fuori coraggio, vivete la vostra vita, amate, lavorate nelle aziende, nelle fabbriche, diventate imprenditori. Siete già imprenditori di voi stessi. Ma ragazzi, è un paese bellissimo l'Italia. Il futuro è nostro, è vostro. Paco diventerà magari sindaco della sua città. E beh, questo è il credo, futuro. Mohamed, sindaco di Milano. Cin Chan, sindaco di Catania, di Prato, magari lo sarà già sindaco tra un po', perché è così. Ma insomma, è la bellezza dell'Italia. Cosa vuol dire? Voi siete più italiani degli italiani, perché avete anelato di venire qui. Voi lo avete desiderato, avete attraversato il mare da quanto amate la libertà all'Occidente. Quindi grazie. Vai, Spada di Fuoco. Ma che lavoro fanno questi morti di fame? Donato De Varese, Mauro De Mantova, ma che lavoro fanno questi? Ma che lavoro fanno? Una volta possono dire che lavoro fanno queste merde, ma queste sono prove delle merde, sono queste. Io voglio incontrare Mauro da Mantova, Donato da Varese, con l'altro testa del cazzo che abita a Bari. Io voglio incontrare, afficcargliele nel culo questa gente, questa morta di fame, che non lavorano, non fanno un cazzo dalla mattina alla sera questi. Questo sarebbe il moderato no, pro ecco, parenziano. Hanno usato ancora il linguaggio, devono ancora, come dire, capire che la maggioranza silenziosa non si esprime in questi termini. Ma il senso è quello, ragazzi. Infatti sono in tre, capito? È una minoranza, 0,5% del paese. David, ma non ti sei mai chiesto perché le iniziali del tuo nome sono come quelle di Double Penetration? Questo non ho capito. Ah, DP. Certo. No, cara, le iniziali semmai sono di Democrazia Proletaria. DP, David Parenzo. È vero, anche quello. Democrazia Proletaria. È una cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Bene. Comunque, ragazzi, i vegani dicono che non posso mangiare la carne. Adesso addirittura i musulmani non vogliono il panino con la mortazza. Ma non è vero. Non ma... vogliono il panino con la mortadella. Come dove l'ho letto? Sul quotidiano libero in prima pagina, ma non solo sul quotidiano libero. E beh, che c'entra? Che cazzo ridi? Scusa, non ho capito. Ma ti pare normale che non so dove siete in provincia persone di... pericolose. State no, facendo beh, esplodere ragazzi... delle piccoli conflitti di civiltà no, che non ci sono. No, non si è mangiato il panino con la mortadella. E dov'è il problema? E si mangerà il panino col formaggio? Il panino... Cioè, dov'è la questione? Ma non ho capito. Perché hanno ritirato in un centro sportivo in Toscana, sì. Non si capisce perché hanno ritirato tutti i panini con la mortadella per la protesta di 4, 5, 6, 7 famiglie musulmane. I bambini musulmani, dicono i genitori, non tollerano la mortadella? Va benissimo, mangino altro. Ma perché la mortadella deve essere negata? La classica mortadella deve essere negata. La mangi a casa tua la mortadella. Te la mangi a casa tua. Cioè, non mi pare un problema questo della mortadella che è stata negata. Allora, ti leggo una cosa. Ti leggo una... No, ma che c'entra l'immigrato? Allora, fa ridere. Cosa c'è di più classico di una merenda con schiacciata e mortadella? Sì, con la Nutella. Da decenni. Fatelo con la Nutella, con altre cose. Al centro sportivo Bellaria di Pontedera, i piccoli studenti e gli sportivi vengono sfamati in questo modo. Ma qualcuno ha bloccato l'affettatrice mentre i piccoli aspettavano la loro giusta ricompensa dopo le fatiche sui campi di gioco. Senti, è una cosa che merita un articolo. Sono stati 10 so famiglie musulmane a chiedere alla scuola di sabotare quella merenda. No, sabotare quella merenda. Ma che parola è sabotare? Assolutamente. La merenda, sabotare quella, perché si sa, la carne di maiale è vietata. Sì, ma certo. Il loro disappunto ha avuto un effetto totalizzante. Via quelle belle fette rosa per le 400 bocche dell'istituto comprensivo è Pacinotti bene, però, con grande meraviglia per gli addetti ai lavori del gruppo sportivo la mortadella è stata bandita per tutti i ragazzi terribile. La scuola si sarebbe difesa citando una misteriosa direttiva del governo. Il gruppo sportivo si arrende subito ma il disappunto resta. Non siamo un ristorante, la merenda è uguale per tutti. Ad esempio ai celiaci chiediamo di portarsela da casa. Perché non è stato chiesto ai musulmani? Stupore ma anche rabbia tra i genitori italiani. Ragazzi, ma nessuno avete rotto i coglioni. Ma chi è che si può arrabbiare avete perché rotto il bambino i coglioni. Non sei, ha mangiato prima con la mortadella? Non voglio la mortadella. Ma va benissimo lo stesso. Ma perché? Con la non ho capito perché. Con la cosa, uno può mangiare altro che l'odore di mortadella non va bene. Allora, ma no, i vegani dicono che non si può mangiare la carne. i vegani dicono che non si possono mangiare i pesci, e i musulmani dicono che il panino con la mortazza non va bene, e poi arriverà qualcuno che dice che la pasta è fatta con i vermi, dunque anche con piccoli esseri umani. Ne abbiamo sentite qualcune nei giorni scorsi qui alla Zanzara di queste cose, no? Ragazzi, avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni. Ci vuole un principio molto semplice, che è la libertà, chiaro? La libertà, punto e basta. Non offende nessuno il panino con la mortadella. Se qualcuno si sente offeso dal panino con la mortadella, se ne vada in un'altra scuola. Siamo d'accordo. Faccia la scuola a casa con gli studi coranici, con i loro ayatollah, le cose. Non rompino le palle. Li isoli ancora di più. Ma nessuno li vuole isolare. Basta, però. Si può dire una cosa molto più semplice: si può mangiare un panino con la cioccolata, un panino col formaggio, cioè non cambia niente. Per mettere tutti sullo stesso piano e non offendere nessuno. Cioè, sei solo tu e gli amici del quotidiano libero che scatenano delle guerre, la guerra della mortadella. Tazza, ma di cosa stai parlando? Ma Rosario da Roma, andiamo con Rosario da Roma, dai, andiamo. apriamo, dai, apriamo. Calma, Rosario, che no, succede? Scherzi a parte, guarda Giuseppe, volevo dire a tutte le persone che si creano dei complessi per il pene. Guardate che una donna arrabbiata. Aspetta, però devi scusami, Rosario, scusami un attimo, sì. Però ti devo sentire bene, che magari stai dicendo una cosa molto importante, per cui mettiti bene col telefono, togli tutti gli ammenicoli che hai intorno, quei fili, quell'auricolare, quelle robe inutili. Spegni addirittura, vattene a casa, che è meglio. Scusa. Rosario, dimmelo, se io non sento bene, ti mando a fare il culo. Dimmi, Rosario, dimmi. Allora, guarda, io penso che la donna arrabbiata. Sì. Te lo fa uscire. Sì, va bene, fuori. D'accordo. Però va bene, d'accordo. Questo è scontato. Però no, non essere no. Scontato. Noi siamo autorizzati a parlare di lunghezza del pene e del sesso. Sì. Tu no, tu devi essere. Tu sei, sì, sei autorizzato, ma devi parlare in maniera diversa, in maniera originale. Se non dici una cosa di originale, mi annoio anch'io. Una donna arrapante te lo fa uscire fuori. Sì. Chi se ne frega? Ma lo sappiamo. No. Dimmi una cosa originale, dimmi una cosa divertente, dimmi una cosa che mi fa pensare a qualche cosa. O che certo. Provo. Allora, che cosa mi vuoi dire? Dimmi. Allora, quando esco dal mare, sì. Il mio pene è lungo 2 centimetri. Va bene, quando vado con una donna davanti diventa 24. Va bene, Rosario, io ti saluto, ti abbraccio. Grazie. E come diceva uno, ti un mando a fare in culo. Ciao. Salvatore da Palermo, dai. Ciao. Ah, Salvatore, dai, dimmi. Pronto? Dimmi, Salvatore, dimmi. No, volevo semplicemente dirti che sono indignato nei tuoi confronti per la considerazione che hai fatto relativamente al papà di quel ragazzo morto a Londra, la ragazza morta a Londra, sì. Per un semplice motivo, perché quando ho saputo la notizia, sì. Anch'io ho pensato esattamente la stessa cosa, avendo 2 figlie fuori, non per scelta, non perché per voglia, ma per necessità, perché sì, però, scusami, il nostro governo, sì. Se mi fai finire solo 3 secondi, sì, ma mi pare no, ma ho capito tutto già, cioè non c'è bisogno spesso di dilungarsi. Tu hai pensato la stessa cosa, cioè a dire, hai pensato davvero che il governo fosse responsabile del fatto che quella è morta in quel grattacielo? No, non responsabile che sia morta nel grattacielo, allora? Ma della motivazione per cui i ragazzi sono andati fuori. A parte che bisognerebbe discutere fino all'eternità di questa cosa. Uno va fuori per colpa di chi? Ma non vuol dire niente questa roba qua. No. Non c'entra nulla, ma vivendo, che c'entra? Vivendo in una terra dove il 70% della disoccupazione giovanile. Sì, però amico mio, ma cosa c'entra? Dai, su. Mia figlia, citando una pubblicità vecchia di un tempo, sì, di uno, sì, un ragazzo, sì. dice parto per vedere cose nuove, lo stipendio per esempio. Sì, ma d'accordo, mettiamo che sia così come dici tu. Cioè dire che uno va fuori per necessità perché non siamo capaci di trattenere le persone, tutto quello che vuoi, a parte che andare fuori è sempre positivo, ma lasciamo perdere queste cose qua. No, come si fa ad attribuire, se non per un dolore fortissimo che evidentemente ha provato il padre, e secondo me comunque sbagliando, cosa c'entra la responsabilità? Quello ha detto il padre. Lui ha detto colpa di questo governo, non dell'incendio. Ma no, certo, non dell'incendio, del fatto che la figlia è andata all'estero e dunque è morta. Posso dire con tutto il rispetto, è una stronzata. È una stronzata colossale. Non c'entra niente. Ma tu potevi morire anche se eri in vacanza. Assolutamente, ma anche sotto casa puoi morire. E allora che significa? Ma non significa nulla. È un caso, è il caso, non il fatto che lei è andata all'estero perché il governo cattivo le ha imposto di andare all'estero. Non dire stronzate, no, dai. No, non il governo cattivo, il governo inefficiente. Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire che fa causa al governo. Ma scusi, ci sono sempre stati i lavoratori che sono andati all'estero per lavorare, dai. Quindi poi io capisco il dolore di questo padre, quindi non mi permetto. Un conto è una scelta, un conto è una necessità. Ma no, ma dai, ma non è come andare in guerra, non sono né un padre. Scusami, uno si può incazzare e dice: avete fatto una guerra sbagliata. C'è la leva obbligatoria. Hanno ragione a incazzarsi quelli che sono stati obbligati ad andare in guerra, che no, una guerra che non volevano fare. Magari un genitore dice: mi avete ammazzato mio figlio che è andato in guerra. Ma non è la stessa cosa. Il paragone è lo stesso. Il padre ha fatto lo stesso paragone, per cui è una stronzata. No, ma avendo fatto, no, non è una stronzata, ma colossale, non una stessa, piccola, una... No, avendo fatto anch'io la stessa considerazione, hai fatto una considerazione stronza pure te, hai detto una stronzata pure te. Non voleva quel signore, quel papà, fermo lì. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E sì, è arrivato. Prima d'anna via, voglio tancarci un culo a Parenzo. A bello mio, te devi mettere in fila. Siamo tanti che lo volemo riempite carci in culo. Parenzo, gli unici ricercanti felicità che conosco sono quelli che vanno a puttane. Parenzo, ma che cazzo stai dicendo? Se un delinquente viene nella mia attività, minaccia mia madre, spara mia madre, io lo faccio fuori. Ma come cazzo stai? Rispetto di cosa? Di cosa? Rispetto per un delinquente che viene a rompere i coglioni a minacciare? Ma vattene a fanculo, buonista del cazzo! La pancia. No, non è pancia. Cos'è questo? Sono emorroidi radiofoniche, si chiamano queste. Beh, non è male questa cosa. Si chiamano emorroidi radiofoniche. Bello. Dovremmo suggerirlo a qualcuno. Sì, questa esatto. Cosa. Emorroidi radiofoniche. Questi sono emorroidi radiofoniche. Molto bello. Cioè, questo è solo questo. Flatulenze, se vuoi. Ciao David, io sono 33 anni che lavoro in un'azienda dove i proprietari sono di religione ebraica, molto sì. rispettosi della religione ebraica, un ascoltatore, sì. e non ci hanno mai proibito di mangiare mortadella. Bene, infatti. Faccio questo esempio solo perché la mortadella manda un profumo sì. che gli fa venire voglia ogni volta che apriamo una rosetta croccante con la mortadella. Ma va benissimo. Io non mangio mortadella. Perché non mi piace. Sei un salutista, mi piace. Sono un salutista perché è troppo grassa la mortadella. Non la mangio per questo, è troppo grassa. La mangio raramente. Diciamo che la mangio raramente. Quando ero ragazzino, devi sapere che io sono stato per anni ospite fisso, sì. cliente fisso di un pizzettaro sotto casa mia a Roma, via del Governo sì. Vecchio. Il mitico, com'è che si chiamava? Baffetto. No, Baffetto sì, è quello che fa la pizza vera e propria. C'è uno che faceva la pizza bianca croccante. Un posto straordinario, che ha chiuso perché sono morti i due proprietari. E c'era la sua specialità, era la pizza bianca con la mortazza. Benissimo, ma sei libero di mangiarla, nessuno e i musulmani non rompano i coglioni. Ma nessuno si rompano i coglioni. Come siete no? voi che create delle campagne di stampa e delle campagne politiche sulla mortadella. Allora, ma è una cosa incredibile. Ma intanto ti dico che il leghista Centinaio sostiene che la Fedeli Centinaio, sì. ministro dell'istruzione, che si è ferita, sembra, è andata anche in ospedale, l'hanno dato sì. qualche giorno di prognosi. All'infermeria della Camera, sì, la Fedeli, del Senato, scusa. Simula come fanno i calciatori. Sì, vabbè, mi sembra di cattivo gusto. Anche lo stesso Centinaio è quello che invece aveva proposto di mandarle delle rose, non delle rose, ha detto che gli avrebbe mandato dei fiori. Allora, ma ti pare normale? Poi è un paese finito questo qua, ragazzi, è veramente un paese finito. Che la Cassazione italiana, la Corte Suprema di Cassazione, debba perdere tempo, denaro, carta. Ho qui davanti una sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione penale, in nome del popolo italiano, pagine e pagine, presidente, relatore, giorni, soldi spesi per stabilire che cosa? Che non è possibile mettere le aragoste vive sopra il ghiaccio. ragazzi, è la fine di tutto, è la fine di tutto. Hanno condannato in via definitiva a risarcire per 5.000 euro, nonché la Lega Antivivisezione, un povero ristoratore di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, semplicemente perché aveva preso queste aragoste, questi astici con le chele legate e li aveva messi vive sopra il ghiaccio. Non si possono mettere perché è maltrattamento. Siamo un paese morto, finito, non si può fare più nulla ormai. Non si può mangiare la mortadella in una scuola perché ti rompono i coglioni musulmani. Ma non è vero. Non si può mangiare la carne perché ti rompono i coglioni vegani. Non si, le aragoste e le cose vanno tenute bene perché altrimenti soffrono. Andate tutti a fanculo. Tutti, dal primo all'ultimo, a fare in culo. Tutti. Tahir dalla provincia di Salerno. Non potete perdere tempo con queste cose mentre crolla il mondo. Con le chele, con la sofferenza degli astici e dei granchi. Ragazzi, ma di che parliamo? Ribelliamoci a questa follia. E la Martani che dice in realtà dovrebbe essere proibito, vegana, no? Sì, dovrebbe essere proibito mangiarle direttamente. Ma tu capisci? Capisci? Vabbè, perché basterebbe fare, come dire, un regolamento su come devono essere tenuti i pesci vivi nei ristoranti. Basterebbe fare un piccolo regolamento e basta. Aveva, insomma, detenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifere con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Io non ce la faccio, ragazzi, non mi avrete mai. La sofferenza delle aragoste e delle cose, no. La sofferenza degli astici, no. Non ce la faccio, non ce la posso fare ad accettarla sta cosa. Anzi, a proposito, devo dire qualche parolina anche al nostro amico Bocelli, grande ascoltatore di Radio 24, il quale, lo abbraccio fortissimo, persona anche molto libera nel linguaggio, molto libera nei pensieri, una persona libera, veramente libera, signor Bocelli, il quale fa un appello. Io ammiro molto Bocelli, per carità. Sì, bravo, bravissimo. Ma no, non solo dal punto di vista artistico, proprio come persona lo ammiro, perché è una persona libera, schietta, che dice quello che pensa, se ne fotte, è politicamente corretto, eccetera. Il quale però fa un appello sul fatto che non bisogna mangiare i cani in Cina. Beh, sembra una cosa. Sì, che d'accordo, giusta, amico, no? Mio Bocelli. Lo fa anche accarezzando il suo Labrador. Non c'entra niente il Labrador. Cioè, se lo fai per intenerire, ce lo fa in accordo, purtroppo, sai, adesso, in accordo con la brambilla, amico mio. No, ma è per far vedere però, sì, che amico, il cane, mio Bocelli, è un animale molto vicino all'uomo, no? Sì, quindi ma non è strano mangiarlo, a me farebbe proprio senso. Sì, ma non ti non io l'ho mangiato, come sai, in Corea, ma sappiamo, l'ho raccontato tante volte. Tu non hai limiti, ma aspetta, proprio... l'ho mangiato perché volevo fare un servizio, ma questo l'ho già detto. Ma il punto fondamentale è un altro: perché ti accompagna la brambilla, caro, come ti chiami, Bocelli? Non ti accompagnare alla brambilla, ti prego. Poi fai quello che ti pare, ma accompagnarti alla brambilla è una cosa ridicola. Cioè, la ridicolaggine è al massimo lì, è al massimo. Accarezza il Labrador e senti che cosa dice. Immagino che mi abbiate riconosciuto, io sono Andrea Bocelli. Invece non conoscete lui, lui si chiama Chopin, il mio cane. Che dire, il cane è da sempre l'amico dell'uomo. Non abbandoniamoli, amiamoli e soprattutto, siccome sono amici, non maltrattiamoli e non mangiamoli. Sto accarezzando il Labrador. Allora io dico una cosa: se in Cina vogliono mangiare il cane, chi se ne frega, lo mangino pure. Non capisco perché il cane non va bene e invece la mucca sì. Cioè, mangia la carne, Bocelli? La mangia la carne e allora lasciasse i cinesi, quelli che ancora vogliono farlo, mangiare i cani, che tra l'altro non sono i Labrador, non sono i Chihuahua, non sono i cani che noi abbiamo in casa, sono cani da allevamento, cani che vengono allevati apposta per essere mangiati. Vabbè, ma cazzi, che c'entra? Loro. Non cambia la sostanza. Ma sì, però la sostanza cambia tantissimo, non è che ti vengano a prelevare il cane da casa e te lo portano o mettono al forno. Ma ti credo, ma allora che cosa vuol dire? Che sono cani da allevamento, chi se ne frega, hanno questo gusto? Se lo tenessero, chi se ne frega della Cina, di quello che fanno in un festival? Dove? Non mangiarli in Europa, ma in Italia, bene, che mi sembra, io non mangerei mai il cane, sì, perché mi fa veramente impressione. Perché il cane, cosa ti no, devo dire? E la mucca sì, uno deve essere coerente fino in fondo. Ma perché è una questione anche di cultura locale, no? No. Cioè di rapporto col tuo, col che allora rapporto meglio hai tu con l'animale. Meglio quelli che non mangiano niente. Meglio ma quelli vero, che non mangiano niente. Nella nostra tradizione culinaria e anche la mucca si è sempre mangiata, signor ad esempio. Bocelli, guarda, signor Bocelli, perché abbraccia le campagne sbagliate? Quella della brambilla, divento pazzo, persona intelligente come Bocelli, guarda, incredibile, incredibile. Giovanni da Novara, vai. Vai. Sì, vengo subito al sodo. Ah, l'altro giorno ho mangiato il cervello. L'altro giorno ho mangiato il cervello. Quello, cervello di quello si ottimo. Mangia. Posto cervello fantastico, fritto. In un posto fantastico in Brianza che si chiama Quinto Quarto. Ottimo. Sì. Grande no, ascoltatore della benissimo. Zanzara, Quinto Quarto in Brianza, posto straordinario. Ma si ma il cervello proprietario, certo, grande anche ascoltatore della Zanzara, e mi ha detto da quanto tempo è che non mangi il cervello? Noi lo facciamo ottimo, fritto. Buonissimo, con limone, buonissimo. Un po' di limone sopra, stupendo, certo, limone spruzzato sopra. Lo so, beh, questo è amico ottimo. Mio. Quello è ottimo, il cervello è ottimo. Stupendo. Giovanni, vai. Sono qua, buono cervello, e ti consiglio anche la tittina, se ti capita di andare nel Novarese, in qualche posto dove la trovi, che è la tetta della mucca. che è un piatto ormai perso ma buonissimo. Comunque chiamavo per questo, però volevo tentare di spiegarti, perché è la prima volta che non sono d'accordo con te, il motivo per cui il signore che ha perso la figlia a Londra ha totalmente e perfettamente ragione a fare quella dichiarazione lì. Motivo molto semplice. Cioè, non ho capito, ha ragione il padre a fare quella dichiarazione? Ad accusare il governo? No, ha detto una puttanata, che... una puttanata colossale. Guarda, io ribadisco ancora una volta, ha detto una stronzata. Ha detto una stronzata, io sono contento di essere stronzo. Provo, se vuoi, a spiegarti il perché credo. No, ma dimmi una... perché. Allora, il motivo è molto semplice, ti do due spunti. Il primo, come padre di uno studente che ha ormai laureando, che sta arrivando alla laurea col massimo dei voti in medicina e che andrà all'estero perché il sistema italiano va bene, pazienza. No, andrà, pazienza, ma va benissimo. Tu puoi protestare, puoi dire sbagliato, è una vergogna, l'Italia non dà opportunità, quello che ti pare, ma che c'entra con la morte delle persone dentro il grattacielo? Scusami. Tutte le cose hanno una causa e un effetto, no? Il motivo per cui questi ragazzi sono andati a Londra credo non sia perché si sono divertiti ad andare a Londra, perché quello ma magari Londra è meglio dove la vivevano in Italia, scusa. Di Dio, ma io spero che il mio vada a Londra o vada a New York. Sì, ma che c'entra con la morte? Che c'entra? C'entra perché il padre che il ragionamento fa un ragionamento che fanno tanti padri. Fa un ragionamento di persona distrutta dal dolore e vuole attribuire a qualcuno una responsabilità che non è di nessuno. Ma in realtà non è. Non diciamo il governo, diciamo che questo paese fa sì che i giovani studino a spese del nostro Stato. E dunque se muori all'estero è colpa loro, è colpa del governo. Ma dai, è una puttanata, dai, su ragazzi, è una puttanata. Non mi avrete mai su questa cosa qua, mai, mai. Bene, adesso voglio sapere da una persona come la pensa. Aspetta. Io top assoluto. La Zanzara. Allora, il collegamento da Genova, Matteo Salvini, buonasera. Buonasera, buon venerdì di coda, chi è in macchina? Come andiamo? Eccolo. Tutto bene, eh? Tutto bene. Bene, vengo dal quartiere popolare di San Teodoro, dove sta avere il citofono che funziona e non avere il vicino di casa che è occupante abusivo e non paga le spese condominiali. Sì. È un successo, comunque i genovesi hanno l'opportunità di scegliersi un sindaco normale domenica prossima. Eccolo qua. Senti una cosa. Eccolo qua. Perché, Parenzo, tu quando rientri in casa hai il citofono, hai la cantina, hai l'ascensore, hai la raccolta delle immondizie. Ecco, in alcuni quartieri popolari, non di Calcutta, ma lo so bene. Penso a Begato, penso alla Maddalena, penso a Santa Teodoro. L'occupazione è sempre sbagliata, dai, su, in ogni caso è sempre quella, tutte le occupazioni. Ma sai che mi hanno detto che per prendere la posta devono andare in strada alle 8:30 della mattina perché non hanno la casella delle lettere e quindi devono aspettare il postino. Ma ti pare normale nel 2017 una roba certo del genere? Certo che non è normale, ma è evidente che non è normale. Va bene, senti, voglio capire una cosa. Non è colpa dei richiedenti felicità, però non c'entra lui niente. Lui li chiama richiedenti felicità quelli che arrivano in Italia, stanno arrivando altri 2000 in queste ore. Li paghi tu, li mantieni tu? I richiedenti felicità. Tu sei fortunato perché sei stato concepito nell'Occidente ricco. Altri sono stati concepiti nella parte povera del paese, del normale. Questo non significa nulla. Questo fare un miliardo di schiavi africani in Italia, ma nessun miliardo, andiamo avanti. Non c'è nessun miliardo. Però prima vorrei chiederti una cosa: il padre della ragazza morta a Londra, Salvini, ha detto chiaramente il dolore, tutto quello che vogliamo. Ha detto una cosa molto precisa: la colpa è del governo italiano che costringe i giovani ad andare all'estero. Condividi questa cosa qua o no? Una parte di colpa sicuramente è di un paese che allontana i suoi ragazzi. La colpa principale è di quelli che hanno ristrutturato quel palazzo risparmiando 6.000 euro sui pannelli ignifughi, che quella è gente che dovrebbe finire in galera. Quello sono affari dell'Inghilterra. Certamente. Sì, poi il fatto che l'anno scorso siano scappati dall'Italia 157.000 tra donne e uomini per cercare lavoro e fortuna all'estero, evidentemente ci dice che c'è un paese che respinge. Sì, ma tu sei... cioè che respinge. Che va a raccattare gli amici di Parenzo sulle coste della Libia, ma allontana i suoi laureati. Cioè, tu dici addirittura che in Italia è in corso una sostituzione etnica, tipo quel piano là, Calè, cioè entrano immigrati ed escono italiani. Scusate, non è Salvini, i dati Istat, che non controllo io, dicono che l'anno scorso 157.000 persone sono scappate dall'Italia per cercare lavoro all'estero, 200.000 ne sono sbarcati. Allora? senza portare particolari, particolari ricchezza al paese. È una sostituzione etica pianificata e organizzata e finanziata. Ma pianificata da chi? Cioè, chi è che pianifica dietro? Da chi ha bisogno nuovi schiavi? Ma dalle chi è? Ma cosa vuol dire? Che poi si sfruttano a 3 euro all'ora. Ma quali multinazionali? Cioè, tu dici le multinazionali governate e finanziate magari da Soros, eccetera. Soros ancora. Ancora Soros finanzia queste organizzazioni non governative, cioè, è evidente. Cioè, ma dietro chi c'è? Oltre alle multinazionali, chi c'è dietro? Ma chi ha bisogno di schiavi? E governi complici, o complici o inetti. Cioè, dunque, i governi dovrebbero essere, cioè, i capi dei governi dovrebbero essere, che ne so, arrestati, incriminati al Tribunale Internazionale, che cosa? Beh, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sicuramente Simonti, Letta, Renzi e Gentiloni dovrebbero rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questo è fuori discussione. Senti una cosa, ma oggi il New York Times, l'ho pubblicato su Facebook, sì, ho letto, fa una mappa da di dove vengono. Ha documentato che ormai le ONG li vanno a prendere sulle spiagge della Libia. Nel 2016 ha certificato che con tanto di puntini rossi, ho visto sul New York Times, ogni tanto leggo anch'io il New York Times, in realtà mi è arrivato un link su Twitter, che i puntini rossi sono più vicini alla Libia, cioè dove nel 2016 sono stati presi gli immigrati, è molto vicino. È un'immigrazione ma le ONG andrebbero secondo te sciolte, le ONG che fanno che ci sono quelle in Italia, quelle che non rendono pubblici i loro finanziatori e non vogliono la polizia a bordo, sì. Dovrebbero essere fermate. No, sono due temi diversi. Stasera. Sono due temi diversi. Un'associazione che non ha niente da nascondere rende pubblici i finanziatori. Ma sono già pubblici. Salga a bordo. Ma te l'ha spiegato? Sono tutti pubblici. Te l'ha già spiegato Emergency. Io li fermerei in porto domani mattina dal primo all'ultimo. Senti una cosa. Dal primo all'ultimo. Io voglio... E poi perché devi obbligare dei militari a salire su delle navi civili? Ma sarebbe una follia pura quella. Per arrestare gli scafisti invece di aiutarli come qualcuno. Ma il primo scafista, secondo te, chi è in Italia a livello di politico? Cioè, lo scafismo di Stato. Cioè, Gentiloni è uno scafista? Gentiloni evidentemente è scafismo di Stato. Sì. Cioè, Gentiloni è uno scafista. Ma Gentiloni non sa neanche di essere al mondo, poverino. Il governo italiano. Cioè, Renzi è uno scafista. Io capisco, guarda la campagna elettorale, lo capisco. State sparando le ultime cartucce, lo capisco, è la campagna elettorale, va bene, va bene. Questo lo dicevo 6 mesi fa, 1 anno fa e 2 anni fa, sì, e dice le stesse cose, le procure lo stanno evidenziando, qualcuno sta aiutando gli però stati. Ti voglio fare 2 domande che magari non interessano a nessuno. La prima è questa, ma te lo faccio perché ogni tanto qualcuno si interessa di questa cosa, a me non me ne frega nulla se hai incontrato Casaleggio. Allora, non è un incontrato Casaleggio né Di Maio né Di Battista, allora, né nessun altro. Ma perché Repubblica l'ha scritto? Vuoi portare in tribunale anche tu? Vuoi portare in tribunale pure tu Calabresi come vogliono fare i 5 Stelle? Mi pare una follia quella, francamente. No, che te ne... no, guarda, un processo civile per uno che ha ragione dura fino a 8 anni. Bravo, non è Salvini a intasare le aree dei tribunali con queste stronzate. Però se porti a un confronto il direttore di Repubblica Calabresi, io sono disponibilissimo a esserci per dirgli che se contro qualcuno lo dico. Ma lo incontreresti però Casaleggio, sì. Domani... Che problema c'è? Ma infatti non capisco perché i 5 Stelle si vergognano di dire che forse hanno incontrato Salvini. Ma infatti, questo è il punto. Cioè, se me lo chiedesse, ovviamente direi di sì. Non me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto, non ci siamo visti. E il problema finisce qui. Ma sì. Casalecchio, perché dice così Casalecchio? Perché lui lo chiama Casalecchio. No, Casalecchio lo chiama Casalecchio. Casalecchio, perché dice così allora? Perché proprio ha paura? Perché lo schifa, perché lo schifa un po', perché lo schifa. Ma a me lo chiedi, scusa. No, perché lo schifa. No, ma senti una cosa, in un ballottaggio tra 5 Stelle e PD, nei comuni adesso, tu chi l'anno scorso l'ho già detto. Dunque, ancora una volta tu voteresti 5 Stelle. I romani me ne stanno chiedendo conto, perché l'anno scorso dissi... Se cioè ti sei pentito di aver indicato Roma, ti sei... Torino, sì, lo so, ho capito. Voterei sicuramente per la Raggi o per l'Appendino. E ti sei pentito? Di Marino e Fassino. Beh, vedendo le condizioni in cui versa Roma, no, non so chi era peggio. No, però, ti sei pentito, ripeto. Ti sei un po' pentito, dai, di aver indicato la Raggi. Ma lascio giudicare i romani, mi aspettavo di più. Onestamente, però detto questo, ma tanto i ballottaggi adesso non ci sono con i 5 Stelle, per cui è difficile scegliere. Ma guarda, scegliere qua, ti dico, a Genova c'è il candidato per il PD, un assessore. Ma come, i grillini a Genova pubblici voteranno per voi? Ma chiedetelo a loro, nessuno è padrone dei voti degli altri. Fai un appello ai grillini, votino per noi. Se vogliono il cambiamento, come vabbè, penso, questo è normale. Come dicono, qua c'è una città mal governata da decenni. Vabbè, ma alcuni dicono Genova, di sì, altri di no, dai. Dico a Verona, dico a Monza, dico a Piacenza. Senti una cosa, invece c'è uno che pare che ti abbia fregato a Palermo, questo qua delle Iene, la Vardella. Ah, questo è una storia pazzesca. Allora, noi abbiamo... non ha fregato me, ha fregato tanti palermitani. Beh, anche te fatti i comizi con lui, dicevi sei il numero uno, la Vardella, in un comizio. Ma perché io penso, ho il difetto di fidarmi della gente. Ma che fai, lo porti in tribunale? Lo porti in tribunale? No, ma no, dai. i tribunali sono così intasati per questioni serie che io vedo. Ma come lo consideri lui? Come è stato possibile? Però, se è come i giornali dicono, che se uno si candida per finta per girare una fiction o un documentario, è un poverino. Poi io sono contento di essere stato al quartiere Zen di Palermo, aver incontrato delle mamme che si battono. Però per questo loro qua dice che prima si è candidato e dopo ha deciso di fare il film. Bah. Vabbè, io preferisco i sindaci veri, non i sindaci finti. Ma com'è possibile che non vi siete accorti che questo qua girava questo con le telecamere? Uno va in giro con le telecamere nascoste nella giacca. Ma scusa, se tu vai a incontrare gli abitanti delle case popolari di Palermo, stai a guardare se uno c'ha la telecamera nascosta. Beh, questo qua però andava continuamente con le telecamere, è chiaro che c'era qualcosa sotto. Dai, vabbè. Io mi fido ancora della gente. Ti vedi un ragazzo di 23 anni che dice: voglio bene alla mia città, voglio provare a cambiare, non ho una lira, mi dai una mano. Lo consideri un coglione, se ha fatto così lo consideri un coglione. No, se ha fatto così è stato poco serio. Va bene, allora fermi per la pubblicità, poi torniamo, ti voglio chiedere di Donnarumma, fermo. Lasciativo Parenzo, e alla defecarsi io non ci penso. Sei un gabinetto schifoso. La Zanzara. Cruciani, arrenditi, l'Italia del futuro è anche musulmana, è anche nera, è anche me. Ti devi arrendere, l'Italia del futuro è anche me. Arrenditi, l'Italia del futuro è mulatta, è musulmana. Ma chi l'ha detta questa cosa qua? Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente. No, ma la cosa più assurda è che uno... Guarda gli Stati Uniti, che paese meraviglioso. Guarda Londra, Sadiq Khan, no, però scusami, di Londra, ma ragazzi. Mi sembra l'ultimo degli esempi da fare, ahimè, in questo periodo. No, però io voglio dire una cosa a Davide e anche a Salvini, che è collegato. Sì. Chiunque oggi si opponga allo Ius Soli viene considerato un nazista, un fascista. Ma lascia perdere. No, ma perché non è uno Ius Soli. No, ma meglio parto da questo. Lo Ius Soli è nasci qui e sei d'accordo, qui questo dopo 5 anni così di scuola, d'accordo. Appunto, però aspetta, ti voglio dire una cosa: la cosa che mi fa girare i coglioni e che mi fa dire no allo Ius Soli è questa, è molto semplice, ed è questa: perché vieni considerato un razzista e un fascista solamente perché dici la stessa cosa che disse, pensa un po', il professor Sartori. Lo voglio nominare qui in questa trasmissione, dove qualche volta si fanno esempi anche alti, ogni tanto si fanno esempi, non si parla solamente di lunghezza del pene, ma si parla anche di altre cose. Allora no, il professor Sartori lo dice adesso da Cospia in un'ultima intervista prima di morire. Cosa disse? Certo, l'idea di concedere la cittadinanza agli stranieri. Ti leggo testualmente quello che disse Sartori, capito, che non mi pare un salviniano, ma non mi pare un nazistoide. Tu non sei d'accordo, va benissimo, è legittimo, ma perché ti devi dipingere gli per altri come dei fascisti? A te, all'amico Salvini, non chiamatelo Ius Soli. Lo Ius Soli che quando nasci in Italia sei italiano. Qui hanno fatto un papocchietto dopo 5 anni. Ma va bene, ma conta il principio. Ma quale aspetta, principio, disse Sartori, mi fai citare Sartori un attimo, dato che citiamo Sartori, sempre altre persone. Sartori, l'idea Sartori di concedere la cittadinanza agli stranieri dopo 5 anni di scuola è la proposta più stupida, superficiale e sconcertante che abbia mai ascoltato. Per essere un cittadino italiano devono aver rigettato il diritto teocratico di Allah. Allora Salvini, io credo che tu nei prossimi giorni, ti do un consiglio di marketing, dovresti andare in giro per le piazze, per le cose dove sei, citando non il professor Borghi, non altre persone, eccetera. Professore, insomma, Borghi, quello che è. No, Borghi, professorissimo. Non so certo se è professore o no, ma dovresti citare Sartori. Sartori, guarda, signor Sartori. Comincerò domani mattina nel mercato di Genova, poi a Desenzano, domani sera a Jesolo. Senti, Donnarumma. Ti aggiungo però che pure il paese che è riferimento dell'idea che ho io, che la cittadinanza arriva alla fine di un percorso di integrazione. Ma uno poi può anche essere... È l'Olanda, che sempre i radical chic elevano a modello di multiraziale, di multietnicità, di tolleranza, di apertura. In Olanda arrivi a 18 anni e se vuoi chiedi la cittadinanza. Punto. No, ma poi tra l'altro, scusa, tra l'altro, io non capisco una cosa. A me mi fa, io posso anche essere d'accordo con lui, ma perché se dico che sono contrario sono fascista? Non capisco, sono xenofobo o sono contro i ma vado ai matti, per questo e per questo che questi qua mi stanno sui coglioni, questi qua che dicono possono essere di sinistra. Ma nessuno ha detto che ma sei come fascista. No, dai, io c'è una campagna ridicola fascista, per cui se sei contro gli Ussoli sei fascista, dai. Ma no, su, è un mondo vecchio che avete ma davanti. Ma che mondo vecchio, dai. L'Olanda è vecchia. Ma l'Olanda fa quello che vuole. Negate diritti, vabbè, dei bambini. Israele è vecchia. Israele è un'altra cosa. Ma sai, negate, che ci sono tantissimi immigrati regolarmente presenti che mi hanno scritto dicendo tenete duro perché la cittadinanza, vabbè, perché quelli ce l'hanno già, non sono dei biglietti omaggio. ma arriva alla fine di un percorso. Senti, ma Donnarumma, che ne pensi di Donnarumma? Tu che sei tifoso del Milan. Che se uno non ama la maglia e preferisce il quattrino, libero di farlo, faremo a meno di lui. Mi spiace perché è un ragazzo di 18 anni che avrebbe potuto avere un grande futuro. Se uno non si accontenta, come leggo, io non di ho 5 milioni, sì, di 5 se uno milioni. Non si accontenta di 5 milioni netti all'anno a 18 anni e fa altre scelte, vuol dire che conta di più il denaro rispetto agli affetti, e come Milan faremo a meno di Donnarumma. Sì, ma lo consideri un traditore da questo punto di vista? Beh, se uno mi bacia la maglia due mesi fa, poi saluta e ringrazia perché 5 milioni di euro non sono sufficienti, come sai, i calciatori sono dei mercenari. Non bisogna aspettarsi molto. Mi sono commosso quando ho visto la serata per Totti. Beh, certo, ce n'è uno, infatti. A Beppe Bergomi, a Zanetti. C'è meglio Totti di Donnarumma, dici, non c'è paragone tra Totti e Donnarumma, dici. Quelli che cominciano la carriera con una maglia e finiscono con l'altra maglia, sia in politica che nel calcio, piacciono. E di Raiola, che ne pensi di Raiola? Perché il procuratore, per chi non lo sapesse, il procuratore giù il cappello, porta a casa milioni e milioni di euro trattando come carne umana questi ragazzi. Secondo me il calcio è drogato da troppi interessi, da troppi soldi e da troppi diritti televisivi. Io sono nostalgico delle partite alle 15, dei tre stranieri in campo. Addirittura? I tre stranieri in campo. Cioè, partite alle 15. Pure le squadre ariane volete adesso. Ma è una cosa terribile. Io ti ricordo che il Milan vinse con Gullit e Rijkaard. Che c'entra le squadre ariane adesso? Ma no, scusa, dici che non vuole neanche gli stranieri nel calcio? No, massimo tre, perché una volta c'erano massimo. Ma che vuol dire massimo tre? Partite del campionato italiano di calcio dove non c'è un ragazzo italiano in campo è triste. Sì, ma guarda la nazionale francese come compò, i cognomi dei ragazzi della nazionale francese. Ma posso dirti che io sono attaccato alle radici? Ma quali sono le radici? Ma quale radici? Un che si chiama Rossi. Come si deve chiamare? Rossi. Ma Donnarumma, secondo te, siccome su web sta succedendo di tutto. Ma non so cosa c'è dietro, magari ci sono altre cose. Veramente ha detto di no. No, ma è vero. 5 milioni ha rifiutati. Poi cosa ci sia dietro non lo so. Pure il calcio adesso. Ma a Milano può venire tranquillo, secondo te? Oppure. Ma ci mancherebbe altro. È pur sempre un gioco, con una palla in mezzo al campo in 22 che la inseguono. Però non capisco perché Parenzo debba fare il bastian contrario a priori. No, ma dico anche sul calcio ce l'ha. Io capisco tutto, ma pure. Ma se preferisce tre stranieri in campo, faglielo dire. No, pure ma che? Mica ha detto che ci vuole Rina. Ma mi sembra. Ho detto pure le quote sul calcio. Io capisco tutto, ma pure le quote. Migliaia di ragazzini italiani ci sono che sperano un domani di poter avere successo anche su un campo di pallone. Non è che gli tolgono il posto i bambini migranti, però. Incredibile. Semplicemente che sono. Posso esprimere il mio apprezzamento per un calcio che aveva qualche valore in più e qualche radice in più. Se passa lo Ius Soli, che fate? Il giorno dopo raccogliamo 500.000 firme per il referendum. Non chiamatelo Ius Soli. Ma che fate in Parlamento, oltre a quello che è già stato fatto? Già fatto, mi pare abbastanza. Manifestazioni. Saremo educati, garbati. Educati, garbati. Sì, l'aggressione, la presunta aggressione non esisti, al ministro Fedeli non c'è stata. Vale la sua presunta laurea, è una sola. Dobbiamo essere più educati, più garbati. Se lo approvano, nonostante in Italia ma si è inventata tutto come si è inventata tutto come i calciatori, come la simulazione. Bella tranquilla, saluti chi si è visto, ma per fortuna. Per fortuna, perché non bisogna torcere un capello a nessuno, però se per caso la approvassero si raccolgono le firme e sono gli italiani a spazzarle via. Io non penso che arriveranno ad approvarla, perché dopo la mazzata che prenderanno i ballottaggi del 25 giugno il governo salta e chi si è visto. Va bene. Però, a presto, ciao. Allora ragazzi, Tahir, provincia di Salerno, il signor Tahir. Ma vedi, Tahir. Ma questa trasmissione lo dimostra, l'Italia è questo, capito? Dai, su, bellissimo, questo è un grande Tahir. Spaccato. Sì, piacere, sono Parenzo. Dimmi. Però Cruciani, ti volevo chiedere un favore. Dimmi Tahir. Tu sei muslim, tu essere un po' muslim o no? Perché come in questi giorni sto facendo il digiuno del Ramadan, no? Bravo. Allora, questa ora sento un poco di stanchezza, un po' di... Ti credo. Tahir. Rispettiamolo, allora... diamo tutto il tempo necessario di cui hai bisogno. Ma guarda, perché? Ma se vuole fare i suoi, se vuole fare il Ramadan, faccia il Ramadan, benissimo. Se vuole intervenire e ti ha chiesto qualche minuto in più, glielo diamo fino alle 21. Ma chi te l'ha detto? Perché gli devo dare... A disposizione, puoi parlare quanto vuoi, caro Tahir, vai. Prego. Allora, voglio ascoltare spesso il Donato da Varese, no? Sì, però chiudi la radio, amico mio. Perché ti vuoi rovinare il Ramadan? No, c'è un eco strano, dimmi. Ecco, perché allora quando lo sento, quel, c'è un, rabbia, sento un eco, sento rabbia, un eco. Quella sofferenza, no? Sì. Non e è allora godo alla grande. Cioè tu godi porta, a sentire, addirittura godi tantissimo quando senti soffrire Donato. Ti prego, allora il suo intervento quasi voglio tutti i giorni, almeno questi 8-9 giorni che rimangono per la fine del Ramadan. Sì. Vuoi sentire giorni, Donato, no? Perché lo vuoi sentire soffrire. Bravo, bellissimo. Allora sì. Senti, voglio... ma come si fa la tua preghiera? La tua preghiera come fa? Come inizia la tua preghiera del Ramadan? Siccome sto al lavoro per il momento non mi ricordo più. Sì, ma come non ti ricordi più? Che vuol dire? Cioè quando cominci a pregare, cosa fai? Però vedi che bravo, a digiuno va al lavoro, capito? Cioè, raccontiamo comunque... queste belle storie. Ma che c'è? A digiuno? Ma è normale. Lui a digiuno va al lavoro. Beh, non è che per un mese non può fare un cazzo, scusa, ma che religione sarebbe? Ma solo voi fate queste follie. No, noi uno non lavora quando c'è un giorno, quando c'è due giorni, quando c'è. Capito, ma abbiamo rispetto e ringraziamolo anche perché nonostante la sua tradizione lui va a lavorare. Ma cosa devo ringraziare? Ringrazia Tahir. Lucia, però ascoltami un po', no? Sì. Allora io faccio il digiuno e lavoro anche normalmente come vabbè, tutti gli altri benissimo, mica... va benissimo. E va benissimo, perché una cosa che Donato perché ce l'ha con l'Islam? Chi? Donato. Ma io che mica sono il portavoce di Donato, allora, ce l'ha con gli islamici perché pensa che siete diversi da noi, che non siete compatibili e a modo suo dice che, che dovete andare a fare vero. In culo. Mi deve dimostrare qual è ma il problema. D'accordo, adesso voglio capire anche io, no? Sì, perché se un senegalese o due o tre marocchini hanno fatto che sei? Bang, allora tu... con la sua moglie, no? Quella non c'entra con la religione, quella non c'entra con i musulmani. Beh, non dovrebbe fare, se sei musulmano la gangbang non la dovresti fare. Non dovresti fare gangbang. Quella è libertà, come dici tu, no? Ma tu fai gangbang, Tahir? No, io non faccio, però io so, io sono sicuro che tu ti masturbi? Tu ti masturbi? Ma perché che te ti frega? Masturbi? Ma io imparo tutte queste cose da te, no? Ma ti masturbi o no in quanto muslim? Ma sei un genio. Sì, vabbè, sono un genio, vabbè, d'accordo. Ma tu ti masturbi o no? Voglio capire. Quanto muslim, allora, ma perché dovrebbe essere diverso? No, quando Lucia da Pordenone ti ha chiesto il Cruciani cos'è lo squirtro, allora a quel momento io ho chiesto che veramente sei un maestro. Che una donna che ha vissuto tutta la vita a fare quel mestiere non sa ancora cosa è lo squirtro. Ma è vecchia, è anziana. No? Sì, però Tahir, ecco. Io voglio capire da te una cosa, scusami. Tahir, dalla provincia. Tahir, ti masturbi? Oh no, oh, mamma mia. Amico mio, fa 5 anni che sono sposato, non sono un ragazzino. E beh, che c'entra, scusa, perché la masturbazione preclusa quindi, chi è sposato, non ho capito. Sarà una cosa del passato, però adesso non c'è nemmeno il tempo di pensare a queste cose. Ma giustamente, una bella famiglia. Ma che c'entra? Perché uno che c'ha una bella famiglia non si può fare una pippa, scusa, ma che sei matto? No, sei? Allora, queste sono le cose dei ragazzini. Non ma mi chi sembrano... te l'ha? Ma questa è un'altra follia. Ma chi te l'ha detto che la masturbazione è una cosa dei ragazzini? Una follia per te, Crucia. Può essere una follia. Come per inizia te. La tua preghiera serale? Qual è? Allora, ti volevo raccontare anche un'altra cosa. No, non mi racconti più niente, difesa, che no? Mi sono rotto i coglioni. Ciao, perché dai, Daniele ciao, Ferretti, ciao. No? Ma chi se ne frega? Vedi che la tua versione comunque crea un po' di dubbio. Dubbio perché pure, c'hai dubbio sulla ladro, versione? Il ladro che aveva l'arma, allora? Allora è riuscito a scappare. Quello che era le mani vuote è stato ucciso, quindi vedi che già una cosa che crea un grande dubbio. Ma quello dubbio. Gli hanno sparato alla moglie. Era minacciata la moglie. Ma quando mai? Ma che cazzo ne sai te della provincia di Salerno di quello che è successo lì a quel poveraccio a Coso? Ecco, dov'era? Allora se ha sparato alla moglie doveva sparare quello che aveva arma in mano. Cruciani, scusami. Ma non lo so, Tahir, ma sono cose di polizia. Ecco. Che ti interessa? Ma comunque Tahir può dire la sua sciocchezza allora, su quella dinamica come gli altri possono. Parliamo sulla legittima difesa. No, non io parliamo. Ciao, Tahir. Ciao, ciao, ciao. Contro le scorte. Allora, giustamente... un'amica mi scrive, c'è un'amica qua su Twitter. Ah, io con amica. Il ciclo, no, una tale Susanna. Io con il ciclo vado a lavorare, dito l'apparenza. Amico mio, se no uno dice il ciclo, non voglio andare a lavorare col ma ciclo. No, non ci ma cosa c'entra? Qualcuno prima o poi lo proporrà, qualcuno lo dirà prima. Ma figo. Antonio, provincia di Milano, vai. Milano, vai. Oh. Antonio. Vai, io. Sì, mi stavo addormentando. Ti stavi addormentando, vai. Beh, non è bello questo, vai. No, però volevo ringraziare Parenzo perché tante volte proprio mi ha rasserenato. Perché? Uno come lui, Parenzo è il numero uno, dice delle belle cose. Vabbè. Come che oggi mi ha un po' deluso. Antonio da Milano, dimmi te, se uno il venerdì ma perché ti ha deluso? Ragazzi, fatemi Antonio capire, perché ti ha deluso? Perché ti ha deluso? No, senti. Perché sentendo dire che se il povero Donato da Varese fosse... nato in Africa e fosse venuto col barcone sarebbe nato da uno spermatozoo nero. Ma sì, ma era una metafora, era una battuta. Parenzo, no, ma Parenzo, tu razzista di tutto, non è un modo di dire. Tu l'hai era detto perché dentro di te fondamentalmente sei un vero razzista, che per te anche i neri hanno gli spermatozoi neri. Ma chi te l'ha detto? Era una battuta, era un modo di dire. No, su questo, questa una battuta. Questa era veramente allora no, allora era veramente penso che siano neri veramente. Questa è una battuta. Ma dai. Allora hanno anche la saliva nera. Allora fermi lì, fermi lì. Ciao, fermi. Cruciale, dimmi cos'è Spring. Dobbiamo fermare l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Dobbiamo fermare l'Islam. Io sono Cristo. Querelatemi. Io devo salvare l'Italia. Tu sei una pezza di merda. La Zanzara. Miserabili. Pronta. Parenzo, guarda, oggi mi hai fatto incazzare come non mai. Basta con sto diritto. Diritto, oseo ogni tanto, quando che capita. No, il diritto. Uno che entra a casa mia per rubare, farmi del male o qualsiasi cosa possa essere, ha solo una speranza, quella di andare fuori vivo, ok? Comunque, stamattina ho visto il camper dei Bitonci e che aveva una faccia ammiccante, sembrava proprio che te ci amasse. Torna a casa, Lessi, torna a casa, che andiamo a mangiare che Andre diceva. Qual è la traduzione? Ma è molto semplice in realtà. Questo povero miserabile dice: Parenzo, l'unica cosa è se il mio oseo vorrebbe dire è il mio uccello, pisellino, sì, ecco, sì. Perché c'era piccolo quindi pisellino. Poi ha parlato di questo camper di Bitonci. Allora, chi se ne frega, dai. Ecco, no, basta, questo cosa, non mi sembra ci fosse altro contenuto. Traduciamo pure, traduciamo. Non è che ho il testo qua di tutto, fammi risentire un attimo che te lo posso. La Zanzara. Cruciani, ma sei proprio un cornuto, cioè dare ragione e sostenere il diacono ortodosso di Stocacchio che difende un omicidio citando la Bibbia e come musulmano che difende il pestaggio della moglie citando la Sharia, cioè tu sei sbananato. Allora ragazzi, vi leggo questa cosa, così ce leviamo come vuole Parenzo. A dire il vero, ero pure io in estasi per la bellezza della linea dei piedi nudi di Ofumi. È un giapponese che scrive. Le gambe snelle e tornite come legno levigato con cura si assottigliavano progressivamente fino alla caviglia, da dove aveva inizio con una leggera curva il tenero collo del piede. All'estremità si stendevano ben allineate le cinque dita che, partendo dal mignolo, si allungavano gradualmente verso la punta dell'alluce. Ciò mi pareva molto più bello delle fattezze del suo viso. Lineamenti come i suoi si trovavano anche in altre donne, ma non avevo mai visto fino ad ora piedi così regolari e splendidi. Quando hanno il collo piatto in modo sgradevole e le dita divaricate che lasciano intravedere le fessure provocano la stessa spiacevole sensazione di un brutto viso. Al contrario, il collo del suo piede era ben in carne, le cinque dita ben accostate come la lettera M e allineate in ordine come una fila di denti. Beh, amico mio. Ma abbiamo con noi per parlare di una roba importante, Filippo Facci, eccoci qui. Bene, molto eccoci bene. Qui. No, scusate, io arrivo ora. Cos'era quella cosa che hai letto? Ho letto un passo di un romanziere giapponese sui piedi. Denti come i piedi, madonna, sui piedi. Che fa 32 di... Vabbè. Che vuoi fare? Eccomi. Eccoci qua. Allora, un articolo, l'abbiamo già letto ieri, di Filippo Facci, dal titolo Perché l'odio, l'Islam, credo che il titolo, il titolo fosse quello, perché odio era l'Islam. Era perché l'Islam mi sta sul gozzo. Esatto, è stato sanzionato con 2 mesi di sospensione, però c'è un ricorso ancora, che significa concretamente, al di là di questo, delle cose dell'ordine dei giornalisti, cui non ci frega niente, che potrebbe, se non venisse accolto il ricorso, essere, rimanere, farci senza stipendio per 2 mesi. Per e senza mesi. Poter scrivere. E senza poter scrivere per 2 mesi. Perché ha scritto, esatto, tra le altre cose... Mi pare una follia, fammelo dire subito, non condivido l'articolo, l'ho letto, l'ho scritto come al solito molto molto bene, in modo... ma... la decisione dell'ordine è folle, folle, folle. Esattamente. Folle. Odio l'Islam, tutti gli Islam, gli islamici, la loro religione più schifosa addirittura di tutte le altre, vabbè, eccetera, eccetera. Cosa... diresti le stesse cose, scriveresti le stesse cose anche adesso? E come? Ne vado molto fiero di quell'articolo. Cioè, guarda, mi aspettavo che mi potessero dire, ah ecco, hai ecceduto nel linguaggio, allora ci sanzioniamo, non so, ti diamo la censura, il richiamo, queste cazzate invece? Che fanno... Invece 2 mesi di sospensione, che è una roba enorme per la media de, insomma, delle sentenze che danno quella roba lì, sono state motivate in una maniera che è davvero enorme. Perché cioè? Qua siamo veramente alla violazione della Costituzione. Perché c'è scritto proprio, vabbè, a parte mi danno del razzista, dello xenofobo e qua sarebbe anche vabbè, ora quello. Di... No, no, quello ci può ormai... stare, e scrivi un articolo così, ci può stare quello, ma non ci può stare. Ma quello c'è, la polemica ci può stare. Scusami, Parenzo, ma insomma, le cose si chiamano come si chiamano. Il razzismo è una cosa diversa. Vai sul vocabolario e guarda. No, va bene, ma questo cos'è? Cioè, è una roba che riguarda le razze, la superiorità di un gruppo rispetto a un altro. Lui ha scritto che gli sta sui coglioni l'Islam, ecco, e le sue espressioni, le sue manifestazioni di opinione. Io mi sono scagliato contro delle idee, certo, e non da mettendo una religione contro un'altra, perché io ho scritto sempre contro le religioni, anche quella cattolica. Ma mi è stato spiegato, se volete vi leggo il passaggio, che scrivere contro l'Islam è peggio, cioè? Non lo puoi fare. Perché io, quando mi sono difeso dicendo, perché io sono andato al processino, dicendo guardate che qua siamo alle idee, cioè alla libertà delle idee, ti leggo testualmente, la parte peggiore è proprio quella che riguarda le idee e che consiste in un attacco, in un'offesa a un intero sistema culturale, cioè vilipendio islamico praticamente. Faccio offendere una religione, un intero sistema di valori, non può non rilevarsi che per l'Islam il Corano ha un valore diverso da quello... che per le altre religioni rivelate hanno i libri sacri, cioè il Corano non si può offendere di altri libri un po' di più? Cioè io non ho capito, ti hanno condannato tra virgolette per vilipendio dell'Islam, in sostanza per vilipendio dell'Islam, per offesa al Corano e a qua c'è scritto, però io se qualche islamico attacco diretto, indiscriminato e generalizzato verso un gruppo di persone che costituisce un quarto del genere umano. No, e allora? Allora no, ma cioè, va gli bene idioti, se... gli idioti sono anche di più, voglio dire. Allora, però la Costituzione non ci impedisce di criticarli. Cioè, sì, no, è ma... enorme sta roba. No, ma ragazzi, no, ma io infatti dico, capisco la polemica di Facci. Non condivido il contenuto, ma né tantomeno posso condividere, cioè il giornalismo di opinione è fatto anche di questo. No, però voglio dire, se un islamico si incazza, se un'organizzazione islamica si incazza, ha diritto di incazzarsi e Facci in tribunale, in sede civile, lo faccia. Questo certo che lo può fare, ma non lo fa l'ordine dei giornalisti, no, che censura l'idea di Facci. Ma io non sono neanche, attenzione, io non sono stato portato in tribunale a nessuno. No, cioè, ma io sono, cioè, guarda, c'è anche questo da dire, come difendo come il punto che tu puoi scrivere quello collega, che ti pare, quindi, una collega giornalista che io non so chi sia, che nell'agosto scorso, perché uno che cazzo fa, cioè uno in agosto si mette a fare un esposto contro un collega, contro lui, fa un esposto e lo manda all'ordine dei giornalisti. Vabbè, ma sono i poveri incoglioniti, invidiosi, parte, del cazzo. Parte, è una ragazza, però, così. Punto. Cioè, rimane il punto che se un islamico si sente, come dire, offeso, ha tutti gli strumenti per potersi vabbè, difendere. Ma ragazzi, i muezzini, lui dice, i piedi non sopporto, la cultura e la puzza dei piedi, i tappeti pulcioni. Ma se, capito, se uno si offende lo può denunciare, però, ma non è l'ordine che lo decide, questo è il mio punto. No, ma neanche questo, denunciare di che? Ma io fossi islamico mi sentirei offeso. Fossi islamico di che? Ma chi è che... vabbè, detestami a tua volta se vuoi, però, ma cioè, infatti io, ho il diritto a detestarti, fa... ma non a non farti scrivere. Io questo io difendo il diritto di Facci a scrivere, questo è il mio punto. Non entro nel merito di quell'articolo che mi fa schifo, non come è scritto, che si do benissimo, ma per i suoi contenuti. Non entro nel merito. A me non piace diritto l'Islam. Di scrivere, ecco, non mi piace tutto l'Islam, non quello, non mi piace quello cattivo, quello buono, ma infatti non mi piace tutto. Oggi teniamo gli occhi sulla palla, questo signore Facci, ma perché non ti piace? Perché ti è stato imposto per due mesi di non scrivere. Questa è una vergogna, questo io dico oggi. Poi litigo con Facci, no, però voglio capire perché ti sta sui coglioni così tanto. Sulla palla, però. Cioè, il vero motivo per cui ti sta sui coglioni l'Islam è esattamente quello. Non c'è un vero motivo, cioè, voglio dire, perché l'Islam è la negazione di tutto quello che la nostra cultura, chiamiamola come volete, russoiana, questo non è vero, ebraica, questa è una sua idea, europea, non è vero, occidentale, questo, eccetera, eccetera, è la negazione di tutto quello che la civiltà occidentale allora ha fatto. Allora fai la guerra a un milione e mezzo di mica musulmani. Vuole fare la guerra, mica vuole fare la guerra, ha detto lì sta su coglioni, punto e basta. No, scusa, la mette su un piano. Io non voglio nel mio paese della gente che considera la donna inferiore, la manda in giro. Ma pelata. Nessuno non la considera inferiore. Ma detto, tu cacceresti tutti gli islamici dall'Italia? Ma le suore che sono velate, scusa. Ma io credo tutta la vita che critico le suore. Sono stato cacciato da un settimanale cattolico perché ho riportato i contenuti originari delle sacre scritture per come erano rivolte contro le donne, perché anche quelle, quindi cioè io non metto una religione contro un'altra, io sono come, scusate se me la tiro, i razionalisti inglesi di inizio Novecento, certo, e penso che tutte le religioni siano false e cattive. Però, scusa, ma ce n'è uno una come diversa che è l'Islam, che è diversa perché non è una religione, è una teosofia. Vabbè, adesso non entriamo nelle cose, però Piccardo, uno come Piccardo che dice che vuole la cosa, la poligamia, dovrebbe essere cacciato dall'Italia, secondo te? È italiano Piccardo. No, non dovrebbe essere cacciato italiano, dovrebbe farsi eleggere, cercare una maggioranza e introdurre la poligamia. Da noi si fa così, da loro non si fa così. Va bene ragazzi, comunque vergogna, perché speriamo che Facci possa continuare a scrivere. Due mesi, certo, non è l'eternità, non ma è una vergogna lo stesso, soprattutto per i sordi, dico io, ma anche per il fatto... Posso dirlo anch'io. Questo è importante, per i soldi. Comunque fammi dire come ho reagito stamattina, insomma, la notizia di ieri sera, stamattina mi sono alzato alle 2:30 e sono andato in cima alla Grigna. In cima alla? Grigna, mi sono fatto Grigna, una bella scalata e vaffanculo. ciao Filippo. Ciao. Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare? Parolacce? Vogliamo fare? Che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Ma mi fate un cazzare, non si può, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e parezzo vuoi far filippino in un sacchetto un attimo, vattene a qualcuno al bagno, no? Hai capito, mo? Hai capito, mona? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Andiamo avanti. Giuseppe, stamattina ero in fila in un negozio di alimentari in attesa di fare la spesa. Davanti a me c'era una signora sui 50-55, una caviglia spettacolare, un piede curatissimo, meraviglioso. E poi un piccolo dettaglio che voi non avete detto, il tallone deve essere curatissimo. Io vedo alcune donne spettacolari, fighissime, col piede curato, l'unghia, sai, perfetta. Però poi le guardi da dietro, c'hanno il tallone screpolato, pieno di duroni, di calli. Che schifo, ma dico io, ma non vi guardate? Ma fate schifo. Invece questa signora, insomma, anche piuttosto anzianotta, aveva un tallone spettacolare, tutto da leccare. Infatti me la sarei messa lì sul bancone dei gelati, me la sarei leccata tutta, Giuseppe, tutta. Altra piccola divagazione, Giuseppe, ma tu lo sai che sei uguale a Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead? Siamo al top, C'ho due chiappe, amore mio. Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. Come Macron. Poca figa, massaggio. La corte, quando vuoi. Eh beh. Comunque ragazzi, a me questa cosa qua, che una scuola di Pisa, un istituto sportivo, un centro sportivo di Pisa abbia vietato di il panino con la mortazza, il panino con la mortadella, per rispettare gli studenti islamici. Devo dire la verità, mi sta sui coglioni. Ma guarda che sei, crei delle guerre, ma non le creo io le guerre, sei dalla vostra parte, collega, la guerra della mortazza. Ma certo. Sei un sobillatore, un titillatore di testicoli di tigre, Tommy, sei la canaglia da Pavia. Sei incazzato anche Tommy Aganaglia. Chi è sta gente? È un pornostar che in realtà fa anche il camionista. Allora io rispetto tutti, Parenzo, però mai che per caso, mai che per caso chiami che so io, dice abbiamo al telefono professor Gustavo Zagrebelli. Ma che c'è? Tommy ha chiamato Tommy Aganaglia, perché lo chiami Tommy Aganaglia? Ma poi cos'è la canaglia? Perché la canaglia? Tommy Aganaglia. Non ti fare insultare, perché guarda, ti rispetto, ti ammiro anche come persona, mi sei pure simpatico, però fare insultare, perché guarda, ascolta, io non amo il calcio, odio, ma lei di cosa si occupa esattamente? Scusi, se non conosco la sua attività. Fa il camionista e il pornostar a tempo perso, diciamo. Tommy la canaglia, adesso cerco su Google. Ma è già intervenuto due o tre volte. Il nostro porno, stai tranquillo, ascolta un attimo, io non amo il calcio, non so le regole del calcio, non seguo neanche l'Italia quando gioca a calcio. Se entro in un bar dove c'è la partita del calcio con mia moglie e mio figlio, quelli che sbraitano, si ammazzano, arbitro cornuto, Juve merda, Milan merda, perché me ne vado? Perché un musulmano deve rompere il cazzo rispettando la sua religione con la mortadella? Ma nessuno ha rotto, in un centro sportivo non deve rompere il cazzo con la minchia, come si a Palermo, con la mortadella. Ha ragione Tommy Aganaglia, capito? Tu lo denigri, dici chi è questo qua, eccetera. Ha detto una cosa molto semplice. Non so che film ha fatto, non conosco la sua filmografia. Quando io sono a casa mia e guardo la televisione. Quando passa il calcio, io, mio figlio, mia moglie, cambiamo canale. Non è che dicono che bisogna abolire il calcio. Se un musulmano entra in un bar e non gli sta bene il panino con la mortadella, se vi assi l'insalata, il pomodoro. Ma infatti non c'è nessun caso, non ha rotto a nessuno, sarà probabilmente andata così. Queste famiglie dei bambini musulmani avranno detto alla scuola: guardate che i nostri figli non mangiano il maiale. E allora questa scuola in modo lungimirante avrà detto: va bene, vi diamo un panino senza il maiale, col formaggio. Hanno deciso di non distribuire più il panino senza l'odore della mortadella. È l'ennesima bufala di quei buffoni, cialtroni, imbroglioni, bugiardi, miserabili, pezzenti di Libero. Ma è gravissimo questa cosa, dai, Piccardo, ma non è una bufera, è la realtà. Sei arrabbiato, Piccardo. Ve lo dimostro, qualche istante fa, durante uno degli intervalli, abbiamo registrato questa telefonatina. Abbiamo chiamato in una scuola, in un centro sportivo dove è avvenuta questa cosa. Sentite quello che è successo, non sentite? Pronti? Sì, Venturi? Venturi, un attimo. Un attimino. Sì, grazie. Sì, è fuori Venturi, non c'è in sede in questo momento. Non c'è, no, volevamo sapere di sta storia della mortadella. Quando si fa del bene si ottiene queste cose qui. È bene non fare del bene. Ma in che senso quando si fa del bene? Non ho capito, dalla merenda a 500 bimbi fa polemica perché quattro stronzi non mangiano la mortadella e si deve passare da delinquenti noi? No, chi passa da delinquenti? Questo è il mio pensiero, ben seccato. No, non c'è dubbio, ma chi sarebbero i quattro stronzi? I musulmani, dice lei? No, chi ha fatto questa polemica è i musulmani. Chi ha fatto l'articolo, lui dice? Chi ha fatto l'articolo è uno stronzo, lui dice, no? No, i musulmani. Certo. Io ho detto chi ha tirato fuori la polemica, non i musulmani. No, lei ha detto per quattro stronzi che non vogliono la mortadella, questo è il punto. Scusi. Vabbè, ora. Amico mio, quattro stronzi che non vogliono la mortadella, no, ma va bene, io la penso come lei. Non è riferito detto a chi non mangia mortadella. E come no? Io dicevo quattro stronzi che non intendevo dire che hanno scritto, che hanno pubblicato. Che fanno polemica. Ma ti pare normale che uno faccia polemica quando ci si, questa persona ti sta raccontando che si dà da mangiare a tutti senza discriminare nessuno? Ma perché uno no? Ma ti pare normale a te? Scusi, scusi un attimo. Ti sembra normale? No. Ma scusi un attimo, ma perché avete ritirato la mortadella? Oh, perché avete ma non è il fatto che c'era la mortadella, c'era di tutto, c'era. Appunto. C'era anche la mortadella, c'era anche la schiacciata senza nulla. Sì, ma perché? Ma come perché? Perché qualcuno non la mangia e va bene, niente mortadella, ma che polemica è? Mica sono stati a digiuno, scusa. Chi ve li fornisce sti panini? Noi ci fanno. Ok, benissimo, dunque non c'entrano niente le scuole. Che c'entrano le scuole? Le scuole vengono qui e portano bimbi qui. Era la festa della scuola. C'era 500 bimbi di tutte le scuole di Ponte Vecchio che hanno venuto a fare la festa qui. Benissimo. Noi nella festa gli si è fatto l'infresco. D'accordo, benissimo. La mortadella l'avete messa o no? Ma per tutti, ma non è che c'è solo la mortadella, c'è di tutto. Ma perché poi hanno deciso di non metterla più? Oh mamma mia. Perché è venuto fuori questa polemica che era, sembrava di discriminare questi ragazzi. Allora, per non discriminare i ragazzi hanno levato la mortadella. Brava, bravissimo. Hanno fatto un errore grosso. Appunto, hanno fatto un errore a togliere la mortadella. Certo, perché... Ma no, ma come? Detto il contrario, prima, scusa. Potevano mangiare l'altra roba. Ognuno può pensarla come gli pare, io ripeto. Ma certo, però se uno vuoi mangiare la mortadella la mangi, se vuoi mangiare la mortadella la mangi, se no ti attacchi, se no mangi un'altra cosa o no? Mangi un'altra cosa, giustamente. Ma chi è che ha deciso di ritirare la mortadella? Scusi. Questo non glielo so dire davvero. Sì. Beh, voi, è un caso pazzesco. Voi un l'avete deciso. Un caso voi sicuramente no. Sì. E come no? Adesso vi mandiamo le telecamere di dalla vostra parte, così lo raccontate questo scandalo incredibile. Ma è vergognoso, amore. È vergognoso. Ma cosa è vergognoso? È vergognoso. Succede solo in Italia. Appunto, succede solo in Italia. Non si capisce cosa, appunto, però. Non si capisce di più niente. Le mandiamo le telecamere di dalla vostra parte, va bene? Organizziamo una bella piazza. Hanno tolto la mortadella ai nostri figli. Ma ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Lei la mangia la mortadella? Ma certo che la mangio. Ma è normale. Gli islamici non la mangiano, non la vogliono. No, mamma mia. Mangio, che... E non la mangiassero, no? Lasciassero in pace chi la vuole mangiare, o no? Infatti, ma perché bisogna dire per rispetto? Per rispetto di cosa? Ma io dico per rispettare gli altri, cioè devo privarmi delle mie proprietà, delle facoltà per non danneggiare gli altri. Se ma nessuno la mangiano. Ma a me personalmente da noi è il fatto di voler mettere in mezzo questi musulmani. Quasi passare loro per delinquenti o roba del genere, non si incazzano niente. Io so soltanto che è venuto fuori questo scandalo, i giornalisti che ne parlano, normale. La Lega che ne parla. A lei la Lega sta sui coglioni, la Lega. Un po' a me sì. Come ti chiami tu, amico mio? Mi chiamo Rino. Rino, ciao Rino, a presto, ciao Rino. Ciao. Giustamente questo è incazzato, dai su. Cioè, questo è incazzato come una bestia. Perché. E probabilmente la scuola ha deciso di non distribuire più panini con la mortadella. Ma che cazzo, ragazzi, per qualche famiglia di musulmani che si fa venire gli scrupoli, non la mangiassero, dai, e basta, su, ne abbiamo parlato pure troppo di questa cosa, è talmente ovvia. E Parenzo dice che per rispetto, sta arrivando un altro audio di Piccardo. Piccardo facesse un partito, è bravo a parlare, facesse Eccolo. Il partito musulmano italiano. Partito dei musulmani italiani, signor Piccardo. Ogni anno puntualmente si inventano queste polemiche dei musulmani che non vogliono far fare il presepe, non vogliono far fare i canti natalizi, che non vogliono che gli altri mangiano le mortadella, ma sono tutte stronzate dei nostri cari amici di Libero. Hanno vinto il premio Pulitzer anche quest'anno. È una bufala come sempre, perché i musulmani non mangiano il maiale, ma non hanno mai preteso che gli altri non facciano altrettanto. Quindi premio Pulitzer anche quest'anno per i nostri cari amici di Libero. Allora, le famiglie musulmane hanno sicuramente protestato. E va bene, ci può anche stare nella follia di questi qua. Ci può anche stare, uno è pazzo e protesta perché magari c'è il bambino che accanto c'ha la mortadella e dice: mi fai assaggiare all'altro? Giustamente, no, il bambino non è che lo puoi privare della mortadella. Sente l'odore della mortadella e lo vuole mangiare. L'altro gli dice: mangia. No, va benissimo, non si mangia, non la mangiassero, eccetera. Ma la cosa grave non è le famiglie, non sono le famiglie musulmane, è la scuola italiana che per scrupolo, per rispetto, idea, per rispettare, hanno eliminato direttamente la mortadella. E Parenzo che gli va dietro, che dice: basta la mortadella. Ma avete ragione, ti ricorderai tu un famoso comizio di Mario Borghezio, in cui lui disse: figuratevi se i nostri nonni si facevano togliere i canti natalizi da un branco di islamici. Te lo ricorderai, no? Quel famoso comizio sui... Ma dai ragazzi, Giorgio da Milano, vai Giorgio, voglio una bella chiusura stasera, che sono carico. Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzio, mi sentite bene? Sì, vai dimmi. A noi non ce ne frega un cazzo dei musulmani, l'Italia è una repubblica fondata sullo squirt e noi vogliamo parlare di figa. Molto bene con Giorgio, te, sì. Però Giuseppe, perché Parenzio capisce poco un cazzo. No figa. Ma stai tranquillo, devi stare calmo, devi stare molto calmo, devi parlare in maniera regolare. Dire quello che pensi nel linguaggio che ritieni opportuno, però di qualcosa di originale. Hai sentito prima la mia citazione di quel romanziere giapponese sui piedi, capito? Cioè non è per forza, non è che se mi dici lo squirt, la repubblica basata sullo squirt, che devo dire che non è male come cosa. Vabbè, che mi vuoi dire Giorgio, dimmi. Allora, per te che sei un amante, nel Nord Milano c'è una signora sulla cinquantina che riceve e fa solamente quello. Ora, se tu hai un po' frequentato internet, vedrai che ci sono una marea di siti dove ci sono signore private, non sono professioniste, che offrono tutto. Invece questa qua si è specializzata. È una sorta di geisha del feticismo. Cioè? Ma ti offre solamente il piede, ti offre. Bah. Quindi tu puoi immaginare che esperienza. Amico mio, scusa, fammi una cosa. Fai una cosa, 393-71-71-701, che okay, è questo il numero, non mi ricordo. 393-71-71-701. Vuoi i contatti in privato? No, voglio il numero di cellulare di questa qua, che pare che sia una puttana che offre solo il piede, giusto? No, perché cos'è? È una professionista. Cioè? È una professionista, non è una prostituta, tant'è vero che non riceve. Ma professionista tutti i giorni... di che, scusa? È una professionista quando parla dell'arte del feticcio. Vabbè, feticcio, ma ho capito, ma che fa con sto piede? Che cosa fa con sto piede? Allora, quel che fa con questo piede lo puoi discutere direttamente con lei. A seconda della cifra tu puoi decidere fin dove spingerti. La cosa interessante è che tu puoi portarle anche le calze. Capisci? Puoi io anche penso che questo mondo sia, io penso che questo mondo sia verso la rovina, non per gli sbarchi dei migranti, ma per queste porcherie. Io penso ma questa è questo. La libertà, è l'Occidente, capito? Ma sì, non, ma è va benissimo, ma non è l'Islam, non è l'Islam di Piccardo. Non è l'Islam di Piccardo, non è l'Islam che vuole condannare Sio Facci con la sua compagna, farà ma non è questa è l'Italia. Questo, come dici tu, questo è l'Occidente libero. Ma nessuno vi toglie questa Giorgio da Milano. Questo signore Giorgio da Milano, io dico, è un maiale ed è una persona anche di cattivo gusto, perché è un signore che mette in piazza davanti a 2 milioni di persone le sue porcherie. Aspetta, la maggioranza silenziosa è anche più porca di lui, però non le dici in pubblico queste robe. In Marocco questa trasmissione potrebbe esistere, in Iran, in Marocco potrebbe esistere, e allora basta, non voglio più discussioni. Potrebbe esistere la zanzara che in Tunisia, senza che ti ammazzano dopo 2 secondi perché parli. È l'ennesima bufala di quei buffoni, cialtroni, imbroglioni, bugiardi, miserabili, pezzenti di libero. A domani, se anzi a lunedì, ciao ragazzi, ciao. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterceli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Ci stai zitto per favore? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.